Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле, вершок за пять минут. Ah, come ci sta bene questa musica di Bulat Akhundzhava in questa Fiera del Libro di Torino dedicata quest'anno ai russi. E come già dicevamo ieri l'altro ieri con Gianluca Nicoletti, mi hanno fatto venire giù dal faro per venire apposta per venire alla fiera, e come una scimmia che cade dall'albero sono piombata qui diretta nel box di Radio 24. E ho conosciuto, ho potuto abbracciare i miei amici così di questo teatro di Burattini, Gloria Guerrera, la regista di questa, e poi delle voci che ascolto alla radio che poi sono diventate facce, non so, come Fitto, quello che fa quella voce meravigliosa da film anni 40 in Destini Incrociati, e poi lamento aspramente l'assenza di Oscar Giannino. E poi, insomma, ho dato un volto e poi ho scoperto di essere un'invidiosa. Perché quando ho visto quanta gente c'era alla trasmissione fatta col pubblico di Cruciani, mi è venuto proprio un attacco da restarci morta. E quindi, insomma, sono scoperte che si fanno viaggiando, che si fanno venendo giù dal faro. Protagonisti quest'anno, appunto, sono i russi. È spuntata invece Chiara Valerio, fenomeno delle lettere, matematica e scrittrice insigne, in più giornalista, in più mi dispiace che non la vediate fisicamente, perché vale veramente la pena, in quanto ha un caschettino anche lei di capelli da ragazzino cattivo ma buono e degli occhialoni, come sempre amo sottolineare, da Harry Potter. Siamo qui alla Fiera del Libro. Devo dirti che appena sono piombata giù appunto dal faro mi è venuto un senso di angoscia infinito. Ho misurato la pochezza della mia vita. Vedendo tutti questi libri ho pensato, mi sono sentita già uno scheletro e il vento mi passava addosso, mi passava attraverso. Quanto tempo ancora dovrei vivere, ho pensato, per leggere o almeno soltanto guardare un decimo dei libri che sono qua dentro. Quella iperproduzione ci accorcia la vita, piuttosto purtroppo ci accorcia anche la possibilità di leggere. Diventeremo sempre più ignoranti, più serviremo la cultura attraverso questa superfetazione. E quindi tu cosa ne pensi? No, no, no, dimmi tu, parlami della tua fiera, ti prego. No, io ogni volta che mi trovo in posto dove ci sono tanti libri mi ricordo questa lettera bellissima che mi ha commosso di Virginia Woolf e Ethel Smith, quando a un certo punto Virginia Woolf cercava di evitare gli appuntamenti di Ethel Smith e per evitarlo fa: oh, quanti libri, non ti si spezza il cuore a pensare a me con questa passione? È come scuotere sempre un moscone dalla sua zolletta di zucchero. Quindi esattamente io ogni volta che arrivo in un posto dove ci sono i libri, nonostante percepisca perfettamente l'ansia del tempo che viene consumato a libri che devi leggere o che dovresti rileggere o che vorresti già aver letto, e mi sento sempre un moscone, perché in realtà io ne voglio un po' ancora. Quindi la mia percezione di me all'interno di una fiera del libro è sempre un po' da letteratura inglese, quindi beccheggio tra Virginia Woolf, moscone con la zolletta di zucchero, a ne voglio ancora di Oliver Twist, e questo purtroppo fa sì che io rimanga sempre chiusa all'interno dei libri anche quando giudico i libri. La cosa che a me sembra veramente impressionante è che, se penso che qui dentro nel lingotto c'erano le presse o c'erano le, insomma, i nastri, e già solo con le persone è così rumoroso, cosa doveva essere con le macchine? Quindi mi viene una specie di angoscia a pensare a che cosa l'industria poteva fare alle orecchie delle persone. Questo da una parte. Dall'altra parte, se uno pensa che siamo qui con la guardiana del faro, allora questo brusio delle persone può essere un brusio di mare, e quindi Radio 24 ci sta benissimo. Ed alveare la gente, che non è poco. No. Ma facci un po' di cronaca, tu sei qui con Nottetempo, no? Io sono qui con Nottetempo, e tra l'altro abbiamo un autore russo, quest'anno la Russia è il paese ospite, che si chiama Pavel Sanayev, e sono qui per presentare questi due libri di scrittori rumeni, e quindi è una letteratura tutta che viene da... sono letterature che non mi sono familiarissime, la letteratura russa fortunatamente di più, anche perché è più tradotta, la letteratura rumena assai meno, però è come sempre emozionante avvicinarsi, almeno per me, mi è sempre piaciuto conoscere paesi attraverso gli scrittori che ne avevano parlato. Purtroppo uno non può leggere tutte le lingue dei paesi, però ho fatto a Gabriella Damestiano, che è questa scrittrice che ha scritto L'incontro, una domanda che mi sembrava veramente sovversiva quando l'ho fatta. Lei mi ha dato una risposta che mi ha completamente smontato e che diventerà la mia risposta, perché le ho chiesto: davvero per uno scrittore la lingua è patria, anche se la lingua è la lingua di una dittatura? E lei mi ha detto: non esistono solo le lingue, esistono i linguaggi. Ho detto: la dittatura ha un linguaggio, non ha una lingua. D'altronde anche la patria è un concetto stratificato. Quindi una dittatura in una nazione fa sì che quello sia meno patria per chi ci vive. E mi ha assolutamente impressionato. E anche mi ha dato questo entusiasmo bambino di qualcuno a cui tu fai una domanda che ti sembra sovversiva e ti dà una risposta che è ancora più sovversiva. E in effetti, come diceva Wilde, giustamente sono le risposte a essere indiscrete. E Gabriella Damestiano ha dimostrato l'indiscrezione che avevo in testa. La guardiana del faro. Шарманка шарлатанка, как сладко ты поёшь. Mi è sembrato di veder passare laggiù, con quell'aria da ragazzo che sta sempre da un'altra parte, uno scrittore a me veramente molto caro, che si chiama, per i suoi libri, Carlo D'Amicis. C'è ancora da qualche parte? Mi sarebbe piaciuto che anche lui aggiungesse qualcosa sulla sua fiera. Il suo ultimo libro è La battuta perfetta, Minimum Fax, ed è un grande comicissimo e tragicissimo poema dei tempi nostri. È la storia di un uomo che vuol far ridere a tutti i costi. È sparito, abilissimo nell'involarsi, e quindi sarà il personaggio più rimpianto, perché si è manifestato. E tra l'altro in una delle prime pagine del libro di Carlo D'Amicis, che è ambientato, non si capisce subito, è un sud che dapprima è indefinito, poi si definisce come Matera, però a un certo punto c'è in questa casa insomma di borghese, di piccola borghesia, arriva la televisione. E da quel momento uno intuisce che sta per finire qualche incanto, però non te lo dice che sta finendo l'incanto, ti fa vedere un altro personaggio che si cava questi occhiali d'osso molto spessi e che si mette a piangere, e quel personaggio poi sarà Pierpaolo Pasolini. Quindi lui con una sola mossa ti dice qual era l'estetica di Pierpaolo Pasolini rispetto al vedere il sud, e che cosa fa la televisione, che cosa cancella. E dalla televisione nasce poi, come diceva giustamente Barbara Alberti, l'ansia di questo personaggio, di questo bambino che vede lo schermo che contorna tutto il reale, di far ridere tutto. E ovviamente, come tutti quelli che vogliono far ridere, anche se ci riescono, lasciano un senso d'amaro ed eccessivo in chi legge. Pochissime cose in letteratura riescono a dare, senza essere eccessive, un senso molto netto, molto condiviso di ciò che è eccessivo. E Carlo D'Amicis, secondo me, nella battuta perfetta ci riesce proprio alla grandissima, per utilizzare un'espressione gergale romana da ragazzino quindicenne. Grazie. Figurati. Ci facciamo una poesia di Majakovskij? Sì, assolutamente. No, ma prima... No, io credo che la mia finezza non arrivi fino al punto di non citare un mio libro che è presente qui alla fiera, che si chiama Buonanotte Angelo, e che è la storia di questo bambino grasso, figlio. Però no, quello che mi interessava era leggervi una dichiarazione d'amore che c'è in questo libro, che ho già letto dal faro, ma la rileggo perché è quello, secondo me, la dichiarazione d'amore che tutte vorremmo. Mara è la bambina di questo bambino, è la mamma di questo bambino grasso che viene rapito, e solo allora lei lo amerà. E l'ispettore di polizia è convinto che sia un autorapimento, cioè che sia stata lei, in quanto diventerà famosissima in seguito a questa cosa, e quindi lui non è sicuro, non è che la stimi, la adora. E quindi, mentre lei si allontana dopo una tragedia che poi scopriremo, parla di lei e dentro di sé, senza dirglielo, che sono, secondo me, le dichiarazioni d'amore più belle, che non si espongono così alla vergogna della parola parlata, le dice: cosa pensa l'ispettore Tabasco nella vita, Gino, mentre Mara si allontana? Io ti sposo, Mara, Non puoi scapparmi. Ci piace troppo il cinema, a tutti e due. Finalmente ruota libera. A te non dirò bugie. Sì, sì, una creatura romanzesca e insostenibile come te. Perché quando ti abbatti nel petto di un uomo, è per sempre. Ti piace il pelo? C'è. E l'odore di maschio? Pure quello. E la protezione? E la risata? Tutto, tutto. Se ce la fai, Mara, Tabasco è qui e aspetta. Di te gli piacerebbe dire la mia donna. Di te ho capito calvario e peccati e che non sei civilizzabile. Un po' la domerei, un po' la lascerai sfrenare. La bottiglia ogni tanto per la letteratura, il sesso furioso, al colmo della tenerezza, lealtà assoluta e tanto cinema. Oh, è piaciuta Chiara Valerio, quindi questa era un piccolo, una scivolata di gusto parlando del mio libro. Torniamo ai russi, no, avevamo annunciato una poesia di Majakovskij, ma mi è piaciuto molto quello che hai detto del libro di perché prego. No, invece pensavo, a me è piaciuto moltissimo come hai liquidato Buonanotte Angelo dicendo è la storia di un bambino grasso. Allora, io più che chiederti, diciamo, cioè, l'atteggiamento sarebbe facciamo una ricognizione in tutta la letteratura favolistica o almeno italiana degli ultimi, diciamo, 500 anni sulla storia dei bambini grassi. Oppure invece c'è qualcosa in più? Ti spiego cosa c'è, che è la trama, c'è una grande sorpresa finale. Allora io, tra il vendere il libro e sciupare la sorpresa a quei pochi che magari spendono, investono questi 4 euro per... Ecco, preferisco non dirlo. Insomma, secondo me la curiosità sui libri è spontanea. Prima ancora che uscisse il libro della Ravera, la gente già se lo litigava e già se ne parlava. C'è qualcosa che viene su dai libri come un profumo. Se c'è, c'è. Se non c'è, potete anche andare a farvi vedere in televisione a testa in giù e piedi in su, è uguale. E quindi per sfiducia in fondo nella pubblicità. E appunto vedo tutti questi libri, misuro la pochezza, ma a parte che per me, per misurare la cortezza della mia vita, mi basta guardare la biblioteca di casa mia, che per chi ha una vera biblioteca è sempre un rimorso. Ci passi davanti e dici mamma mia, che ti fa sentire veramente ignorante. Però ecco, volevo parlare soprattutto perché vedo che anche qui in questa iper pubblicazione ci sono però i classici, per fortuna i classici ci sono sempre, e volevo parlare, e lì non si sbaglia mai, e volevo parlare del mio primo rapporto coi classici. Adesso le mamme sono tutte molto, i mamme e i padri colti si dannano perché i loro figli non leggono. Secondo me dovrebbero fare come i tempi miei, perché c'era un metodo sicuro, ci pigliavano a schiaffi. No, ci proibivano i libri. Il libro era l'oggetto proibito. Noi avevamo un rapporto rischioso e acrobatico con i libri quando eravamo ragazzini, perché i genitori avevano questa idea della censura, ingenua, logistica, non so, in cima all'amante di Lady Chatterley, no? Per esempio, in fondo Pinocchio, cioè a portata di mano. Quindi avevamo creato una banda famelica e senza scrupoli con i miei fratelli e cugini per fregarsi i libri. E c'era anche questo rischio, c'era questa emozione quando leggevi che si traevano da dietro certi schiaffi nell'orecchio, che ancora oggi per me, ma libri, cioè per esempio I Karamazov era proibitissimo, Anna Karenina, mi pare ancora un sogno stare con Anna Karenina in mano senza che arrivi qualcuno dietro al tacche che ti dà una saracca. E quindi si univa anche l'avventura a questa cosa, si univa il rischio, la sfida verso gli adulti, non solo, ma eravamo vergini di bibliografia critica, noi manco e sapevamo che esistesse, eravamo il primo lettore nel mondo, eravamo a tu per tu con la pagina. E poi eravamo anche luterani in letteratura, non avremmo sopportato che qualche parere altrui si mettesse fra noi e la pagina. Racconto sempre, e poi appunto in seguito è molto difficile fare una bella conversazione letteraria come a quei tempi, perché, scusate per carità, un po' per generalizzare, però è vero, parlare con un maschio di letteratura è difficile perché ti vuol sempre far capire che ne sa più di te, diventa una guerra. Due, cioè non se ne, è vero Chiara? Allora si parlava, non so, quando abbiamo scoperto per esempio le confessioni di un ottuagenario, si parlava della di Carlino, della Pisana, come amici nostri, si facevano, allora il pettegolezzo è sempre piaciuto, ma allora era su questi personaggi, eravamo tutte pazze, noi ragazzine, bambine del principe Mishkin, ma insieme anche di Rogojin. Il bene e il male, il demone e l'angelo. Ieri Nicoletti ha parlato del barone di Mezzato, è sempre lo stesso principio. E quindi io c'è questo episodio che racconto sempre perché lo trovo bellissimo. Mio cugino, che era un grande sbruffone, era il più ardito, diciamo, lo hanno beccato, ma mica con l'amante di Lady Cetteri, con Anna Karenina, che comunque era la storia di una donna perduta, sotto Natale. E lui, che portava sempre queste giacche da ladro, un po' grandi perché nascondeva le cose... Allora, senza regali, allora si era seri, si portava anche il carbone ai ragazzi, fino a grandi, fino a 13-14 anni. E lui, escluso dai regali, escluso dalla cena, mortificazione massima. E lui mi ferma, io anche un po' sa con quell'ipocrisia, quando l'altro è stato punito, che l'hanno beccato in fondo, sei contento di averla fatta franca. E allora lo incontro in corridoio e lui mi dice, che me ne frega a me, guarda. E si era fregato i volumi di Guerra e Pace, enormi, e mi dice, che me ne frega a me, io faccio Natale dai Rostov, che se c'è Serena Vitale che sente la mia pronuncia russa mi uccide, ma comunque si dirà Rostov probabilmente. Non lo sappiamo. Ma insomma, e quindi, e questo è il rapporto, e quel rapporto è sempre rimasto. E che cosa è rimasto nella mia scrittura di tutto questo? Io non lo so. Non lo so proprio, perché c'è un grande poeta russo, Osip Mandelstam, il quale dice, quando lo interrogano su di lui, dice, qualche volta risponde, non posso servirla, io non sono un mio estimatore, ma questa è già di falsa modestia, ma l'altra molto bella è, non so rispondere, su di me non ho che indizi. E gli indizi su questo sono nella pagina. E nella pagina ciò che mi è sempre rimasto è stata la confidenza con questi personaggi. Per me Tolstoi, il brutale Tolstoi, il pessimo Tolstoi, l'ipocrita, il magnifico, il più grande scrittore del mondo Tolstoi, è come un compagno, un amico e un nemico e un vicino di casa. Infatti ho scritto due libri, uno su Majakovskij e l'altro su Tolstoi, dove li ho veramente presi per la collottola, come si fa tra amici. Senza, e probabilmente anche togliendoli da quell'alone di solennità e di noia che gli intellettuali fanno intorno ai classici. Con Chiara tante volte abbiamo parlato per esempio del capolavoro di Proust. Chiunque abbia una piccola biblioteca in casa ce l'ha, alla ricerca del tempo perduto ce l'ha, quasi mai si legge. Promana da questi volumi un senso di noia, di costrizione, perché gli intellettuali ci hanno fatto credere, perché sono gelosi, solo per loro le vogliono ste cose, e quindi è difficile poi riscoprire che la cultura non è una punizione, che è un grandissimo privilegio, anche perché rispetto all'immagine, tu guardi la televisione e l'interpretazione è univoca, c'è un'immagine, il libro no, 10.000 lettori, 10.000 interpretazioni diverse, c'è un momento di intimità che non c'è con nessun'altra cosa al mondo. La guardiana del faro. Ecco, questa musica mi introduce molto bene appunto alla persona di Majakovskij, appunto questo libro che non è più in commercio, quindi questa non è pubblicità, giusto se ve lo danno attraverso internet, altrimenti non lo troverete mai più. Si chiamava, si chiama tuttora, mica è morto, si chiama Gelosa di Majakovskij. E mi sono occupata di questo poeta russo della rivoluzione, questo, uno dei più grandi megalomani del mondo. Non ho niente contro la megalomania, purché si sia veramente grandi, e lui lo era. Lui lo era, e l'ho raccontato come raccontato da una vecchia gattara, che poi sono io, che piena di animali in casa, che in questi fogli unti di cibo bestiale trova la poesia di Majakovskij, dove parla allo scienziato del futuro e dice resuscita me, perché i futuristi avevano una fiducia quasi religiosa nella resurrezione scientifica del corpo. C'era tutta una gara a farsi mettere nel ghiaccio, come si dice Ravera? Ibernare, grazie, che lei è ancora molto più in testa di me. E quindi l'ho fatto rivivere con l'unico mezzo a disposizione, che è questo teatrino domestico della parola, e attraverso Majakovskij ho raccontato uno dei periodi che più si sarebbero voluti vivere, ed è la Russia tra il 900 e il 930, una catastrofe dopo l'altra, tre rivoluzioni, due guerre, carestie, epidemie, milioni di morti, ma anche milioni di vivi. E di questi milioni di vivi è stata la fioritura artistica più esplosiva del secolo, l'unica vera avanguardia, io credo, del Novecento. E poi questa grande... c'era, era un momento in cui ancora i poeti avevano l'illusione di mutare il reale. Avevano fatto tante di quelle follie, i futuristi, che quando hanno visto, è scoppiata la rivoluzione, hanno pensato, siamo stati noi. Siamo stati noi. E finché non si è stretta proprio la morsa del potere dal 17 al 21, qualsiasi esperimento e qualsiasi libertà è stata possibile. Ragazzi che dormivano tutti con la pistola sotto il cuscino, tutti morti quando gli è andata bene a 36 anni, se non a 25 come Jesenin, se non a 30 come Majakovskij. E quindi mi sono occupata di questo uomo, e l'ho amato com'era, spesso ignobile. Majakovskij era pura contraddizione, era un gigante che non sapeva dove mettere il suo corpo. Dalla nascita all'ultimo respiro ha sempre avuto una grande difficoltà a piazzare questo corpo da gigante, esibizionista al punto di vestirsi di giallo, però timido come una viola, e poi sinceramente dedito all'idea comunista, e col solo pensiero di farsi arrivare delle scarpe da Parigi che fossero veramente come bisognava. E se ci fosse stato tempo avrei letto Un amore assai poco noto, che è quello tra lui e Marina Svetaeva, questa grande provocatrice, e invece una bianca per orgoglio, perché dal momento in cui vince la rivoluzione lei non può che mettersi con lo zar, che poi è stato trucidato. Io credo però, ecco, una poesia di Marina Svetaeva, tanto per entrare, separarsi, la supernaturale sciocchezza, separazione, non è lingua russa, non è femminile, non è maschile, separazione, ma che lingua è? Neppure questo significato esiste. Una donna che ha amato moltissimo senza mai vedere l'oggetto del suo amore, era un tale scintillante, fulgido monumento di ego che si innamorava di un uomo e lo trasformava, come spessissimo facciamo noi donne. Lo trasformava in questo cumulo e poi di colpo, scritte le sue poesie, si svegliava e allora lo malediceva. E adesso però credo che più che parlare di poeti bisogna far parlare i poeti. Ahimè, questa è una traduzione, e io stessa che amo tanto e ho frequentato maniacalmente la letteratura russa, tuttavia non la conosco. Ho studiato il russo per 2 anni, ma dato che i neuroni non sono acqua, purtroppo troppo da vecchia, ho imparato pochissimo. Però... e quindi la mia conoscenza del russo passa attraverso i traduttori. I miei russi sono la duchessa d'Andria, sono Leone Pacini Savoy, sono Angelo Maria Ripellino, per quanto riguarda la parte moderna, soprattutto Serena Vitale, ma appunto non ho avuto mai il bene di leggere questa lingua che è un'orchestra. Quindi accontentiamoci della traduzione, perché quando l'opera c'è, si trova sempre un altro poeta che in un'altra lingua... scrive un'altra poesia, e questa è una delle più famose poesie, il poema di Majakovskij, che si chiama La nuvola in calzoni. Immaginate un po', questi nella Russia zarista, nel pieno del formalismo, che cominciano a dipingersi la faccia, che vanno con delle cravatte lunghe fino ai piedi, che una notte, ubriachi sempre, ma per essere ebri, passano in tutte le strade di Pietroburgo e cominciano a cambiare i nomi gloriosi, non so, non più Corso Patyonkin, ma Corso Majakovskij, Corso Yesenin, Corso Khlebnikov. Questi ragazzi ai quali io ogni tanto guardo i graffiti, per lo più repugnanti, che coprono le nostre città, a questi ragazzi invece... c'è stato per un istante ciò che poi invano invocherà il 68, c'è stata veramente l'immaginazione al potere per fare le rappresentazioni teatrali, gli davano l'esercito, gli davano la marina, avevano 5.000 comparse, erano dei giganteschi set. E nel 21, nella città di Vitebsk, la città di Chagall, viene dato a questi ragazzi la facoltà di dipingere tutto: strade, muri, treni, stazioni, vagoni della metropolitana, e si trasforma Vitebsk in una grande atelier dove questi ragazzi, che erano appunto Chagall, Altman, lo stesso Majakovskij, la Gonciarova, cioè tutti i nomi, Tatlin, i più straordinari nomi di quell'epoca, erano tutti. Ad un tratto Vitebsk diventa una città di pittura, poi arriverà Stalin, però intanto hanno fatto i pazzi quanto credo nessun'altra avanguardia nel mondo ha potuto fare. E poi tra l'altro erano dei provocatori, quello che noi vediamo adesso in televisione, le risse, sono la lontanissima, la funebre rintocco di ciò che questi ragazzi inventarono in maniera molto più emozionante, cioè la provocazione. Andavano davanti al pubblico per litigare, ma erano delle provocazioni meravigliose. E prima c'è questo uso che è invalso fino a qualche decennio fa anche nei nostri teatri: quando non si gradisce si buttano i gatti morti, ai tempi dell'Ambra Iovinelli, dell'avanspettacolo, c'erano queste cose. Loro arrivavano, i futuristi, intanto travestiti in tutte le maniere, e poi li portavano loro i gatti morti, cominciavano per una delle tante a tirare i gatti morti, ma c'erano anche scherzi molto più sofisticati, spesso dovevano scappare dalle uscite posteriori, spesso arrivava la polizia. Ma quando poi lui diventerà un poeta sovietico, allora quando la sala è vuota lui fa chiamare i pompieri, perché poi usarono anche... E questa poesia io la trovo... C'è quello che non vedo un po' intorno in questa fiera: molta professione, molto commercio, sicuramente delle anime anche fervide, ardenti, però questo non diventa atmosfera. Ecco, invece in questa poesia, che piaccia o non piaccia, c'è. Intronando l'universo con la possanza della mia voce, cammino, bello, 22enne. E c'è già anche la nefanda mistica della gioventù. Comunque, se volete, sarò rabbioso a furia di carne. E come il cielo, mutando i toni, se volete, sarò tenero in modo inappuntabile. Non uomo, ma nuvola in calzoni. Voi pensate che sia il delirio della malaria? Ciò accadde Odessa. Verrò alle 4, aveva detto Maria. Le 8, le 9, le 10. La dodicesima ora è caduta, come dal patibolo, la testa d'un giustiziato. Sei entrata tu, tagliente come un eccomi. Tormentando i guanti di camoscio, hai detto: sapete, io prendo marito. Ebbene, sposatevi, che importa, mi farò coraggio. Vedete, sono così tranquillo, come il polso d'un defunto. Io vidi in voi una sola cosa, vidi in voi una gioconda che bisognava rubare, e vi hanno rubata. Volete stuzzicarmi? Ricordate, per i Pompei, quando esasperarono il Vesuvio. Ehi, signori, dilettanti di sacrilegi, di delitti, di massacri, avete visto mai ciò che è più terribile? Il viso mio, quando io sono assolutamente tranquillo, e sento, e qui c'è tutto Majakovskij, e sento che l'io per me è poco, qualcun altro da me si sprigiona ostinato. Maria, Maria, Maria, lasciami entrare, Maria, non posso restare in strada, non vuoi? Maria, più vicino, con denudata impudenza o con pavido tremore, concedimi la florida vaghezza delle tue labbra. Io e il mio cuore non siamo vissuti neppure una volta sino a maggio, e nella mia vita passata c'è solo il 100° aprile. Lui non sa ancora che morirà in aprile sparandosi un colpo di pistola. Maria, il poeta canta sonetti, mentre io, tutto di carne, uomo tutto, chiedo semplicemente il tuo corpo, come i cristiani chiedono: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Maria, concediti. Maria, non vuoi? Non vuoi, Maria? Maria non vuole. Oh, a proposito, scusate, noi siamo qui. Mi piacerebbe molto se qualcuno intervenisse, qualsiasi cosa, dicendo perché è venuta la fiera, perché non c'è venuto, raccontando i fatti suoi. C'è particolarmente la signora Luisa, che ieri, che abbiamo descritto con Nicoletti con una specie di squab, è veramente vestita come una giovane pelle rossa, e ieri era molto desiderosa di parlare, e poi davanti al microfono è ammutolita. L'ho trovato un gesto incantevole. Siamo tutti pronti a fare le gazze davanti a un microfono, invece Luisa ha avuto questo questo pudore non le è andato. Oggi è diverso, Luisa, vuole dire qualcosa? Sì, oggi sì, sono un po' meno emozionata dell'altro giorno e sono molto felice di essere qui. Per me l'occasione di venire al Salone del Libro è un'occasione stupenda, immergersi nella cultura, sentire e conoscere di persona gli scrittori, quindi è una cosa bellissima, è un evento straordinario. La guardiana del faro. Шарманка шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка шарлатанка. Ecco, vi dico la poesia che dedicò invece a Majakovskij, Marina Tsvetaeva, perché era infatuata di lui. Lei era una grandissima sbruffona e pensava che uno sbruffone come lui dovesse per forza averla notata. Anzi, molte delle sue provocazioni le faceva apposta perché Majakovskij la notasse. Le piaceva immensamente l'idea di avere di essere amata e di amare qualcuno al di là, il nemico, qualcuno al di là della barricata. Invece lui, che era molto bigotto, sovieticamente molto bigotto, non ci pensava nemmeno. In più, lui era anche un po' molto per bene, anche questo sovieticamente per bene. Era scandalizzato che lei avesse degli amanti, scandalizzato del fatto che addirittura fosse andata con una donna, con Sofia Parnok, e lo sbattesse in faccia a tutti, perché lei, devo dire che metà delle cose scriteriate che ha fatto, le ha fatte per raccontarle, le ha fatte per strappare la maschera di rispettabilità ad una società che detestava. E quindi lei ci metteva conto, anche se Majakovskij in maniera del tutto sleale le ha sempre nuociuto, ha sempre misconosciuto la sua grandezza poetica. E oggi si sa che Marina Tsvetaeva è notevolmente superiore a Majakovskij. E quindi crede che lui... E gli manda una sfida, come un guanto di sfida che è un guanto d'amore. E dice, lo chiama... Vladimir Majakovskij, arcangelo dal passo pesante, salve nei secoli, Vladimir. È carrettiere ed è anche cavallo, è capriccio ed è legge. Tira il fiato, si sputa nel palmo, reggi forte, gloria da carro. Salve, impiastrato arrogante, che per pietra hai scelto il topazio, senza farti sedurre dal diamante. E con questo contava cavallerescamente di conquistare Majakovskij, stava fresca. Questi non sono neanche versi elogiativi, è la sfida innamorata di chi si crede più in alto. Quando legge questi versi, Majakovskij impazzisce di rabbia, perché gloria da carro, a me, che allora c'era questa gara chi era il più grande poeta di Russia, e poi gli dice, tu che hai scelto il topazio, cioè la pietra grossolana, mentre lei si tiene il diamante. Stavolta ha passato il segno, per cui passa come un fulmine, col foglio in mano, in una notte di freddo infernale, col vento che porta via, con la tormenta, e corre a casa di Marina Tsvetaeva per farle ringoiare queste parole. Tra l'altro lui la disprezza e la teme perché vede la strega vera, e quando lei si presenta ad una lettura di poesie di poeti sovietici, vestita da ufficiale bianco, con la giberna e tutto, in più col marito che sta combattendo con i bianchi, quindi uno che con un po' di senso comune sarebbe stata a casa e ben chiusa. Lui suscita la voglia dell'inquisitore di acciuffare una torcia e darle fuoco. Ma anche lì come si faceva a bruciare il fuoco? Perché lei ardeva già per suo conto. E quindi quando però c'è la provocazione di questa poesia, corre a casa di lei per vendicarsi, per dirgliene quattro. Perché anche lui in questo appunto non aveva neanche un po' di onestà intellettuale, perché non riconosceva la sua grandezza, pur essendo... ho perso il foglio, però ve lo racconto. E allora arriva in questa casa, no, ecco, la va a cercare, pensando di poter addirittura ucciderla. Lui corre, una curiosità ardente mi sosteneva, come se nel forsennato crocevia di quegli anni quello fosse l'incontro mancante. E poi anche un po' di curiosità morbosa di me, inferocito come sono, che le farò adesso? La schiaffeggio, la stupro, la faccio arrestare e me la mangio. Trovai la casa e arrivo in questa casa poverissima, il campanello è sbudellato, bussa col pugno e apre Marina. e lui, che è arrivato furibondo, si calma di colpo, è intimidito dalla povertà e dal freddo che c'è in questa casa, perché dentro fa più freddo che fuori e ce ne vuole, però non è che si arrende, dice subito, fa la voce di Majakovskij il bullo e dice: ho ricevuto i vostri brutti versi. E lei fa naturalmente Marina Svetaeva la provocatrice e dice: volete sfidarmi a duello? E poi zitti. Restammo uno di fronte all'altra, seduttore contro seduttore, senza saperci sedurre. Signori della parola, senza voce. Due istrioni di quella portata, non trovavamo uno dei gesti consueti. Di fronte, muti, soffrendo ognuno della bellezza dell'altro. Finora ci eravamo visti sempre armati. Ci guardammo, come si guardano fra loro i cavalli, assolti dalla parola. Eravamo usciti dalle nostre pelli marchiate per divenire pura nostalgia e fratellanza disperata. In un tempo fondo, da matrimonio in una cattedrale sperduta, spettrale, cominciamo a piangere. Non so se prima lei o io, forse insieme. Piangevamo zitti, perché non ci saremmo abbracciati. Tutto si consumò nelle lacrime. Poi Alia, la bambina, si svegliò, chiamò mamma, ributtandole addosso la sua identità. Vi accompagno giù, disse lei, prendendo il lume, e si mise addosso un cappotto così trasparente che ebbi l'impulso di salvarla dal freddo col mio corpo. Ma ero ormai ridiventato Vladimir Majakovskij, sprezzante, con chi stava sotto un'altra bandiera. Il giorno dopo, però, comprai una pellicetta e gliela mandai, senza dire da parte di chi. Marina ebbe il garbo di non ringraziarmi, ma quando mi salutò, prima della partenza, indossava quella. E guardandola, io sapevo che la frase che di lei, lei gli dice prima di partire, cosa devo dire all'Europa? E lui risponde, voleva dire, mi amate ancora? E la mia risposta, che la verità è qui, significava la verità del nostro pianto. Lei morirà, lui morirà sparandosi un colpo, e lei si impiccherà a 49 anni quando dopo l'esilio tornerà in Russia e sarà totalmente estranea a tutti i letterati, che anche Pasternak, che è stato il suo grande amante de plume, si sono scritti delle lettere bellissime, si sono molto amati per lettere, lui per un istante addirittura ha pensato di lasciare la famiglia per lei, poi non l'ha lasciata, e quando la ritrova nel 41 una donna distrutta, non l'aiuta per non dare un dispiacere a sua moglie. Ecco, questi si chiamano, anche se sono dei grandi poeti, i moglioni, coloro che identificano la moglie con l'arredo del salotto. Bene, grazie a tutti quelli, ai vivi che sono stati qua e ai fantasmi che ci hanno ascoltato. Arrivederci, grazie. Grazie Gloria Guerriera, grazie.